apre con un saluto del presidente dell'Istituto Trentino di Cultura, l'ITC misterioso, il gran ricettacolo del nostro istituto, dell'Istituto Italo-Germanico e di vari altri, il proprietario di questi ambienti, eccetera, il professor Achille Ardigò, che credo tutti loro conoscono e che certo può entrare anche nell'argomento con più titolo che non il sottoscritto, vero, come più vicino al mondo della filosofia, per quanto riguarda la nostra vita sociale e istituzionale, posso comunicare, lui sta lavorando intensamente per completare e aggiornare la fisionomia istituzionale di un complesso che è del tutto sui generis, appunto come questo Istituto Trentino di Cultura, che è in realtà però la vita di tutti questi altri istituti, non incluso il nostro. Quindi gli sono particolarmente grato anche di questa parola di saluto che ho già preannunciato nella sessione di apertura e che adesso in un suo intervento egli ci darà. Grazie professore. La parola, io ho l'onore di presiedere sostituendo la professoressa Cigliotti dell'Aquila e ho il piacere di annunciare alcuni cambiamenti nel programma. Avremo tre relazioni stasera, quella del professor Cacciatore dell'Università di Napoli, quella della professoressa Carla De Pascale dell'Università di Bologna e chiude il convegno il professor Antiseri dell'Università di Roma. Ho il piacere di dare la parola al presidente dell'ITC, il professor Ardigò. Grazie caro Chairman. Colleghi, sono veramente onorato, anche se in limine, di essere qui presente a questo convegno che ha già suscitato così larga attenzione in sede anche nazionale. E vorrei dire come un istituto come quello che pro tempore presiedo, che ha i vertici di certi saperi, da quello del più grosso centro italiano dell'intelligenza artificiale e della robotica di secondo livello, all'Istituto di Scienze Religiose, al Centro Europeo di Fisica Nucleare Teorica, eccetera, eccetera. In questa esperienza veramente unica che io ho ereditato e che cerco di portare a funzionamento nel senso migliore, un convegno come questo, come quello precedente, sempre mosso dal signor Roger sulla filosofia del cuore di Rosmini, significa che noi siamo una piccola città, però siamo punto di riferimento non solo nazionale ma internazionale di un sapere. Ora, a me piace moltissimo, anche se sono purtroppo largamente esterno, non ho potuto seguire, ma leggerò gli atti, questo tema, perché in piena estenuazione della cultura del postmoderno, del pensiero debole, della ragione limitata, voi vi siete interrogati sul testo kantiano che più direttamente affronta il tema della possibilità di un approccio filosofico, metafisico e non teologico alla religione, fondando con ciò stesso il punto di vista moderno sul problema dei rapporti fra ragione e religione. La religione di Kant, il testo che oggi celebriamo, costituisce, come autorevolmente ricordato in apertura del convegno il professor Olivetti, il momento nel quale con maggiore chiarezza emerge la trasformazione kantiana della tradizionale teologia naturale in filosofia della religione. Qui sta il determinante passaggio storico-culturale di un pensiero razionalmente moderno, ma insieme che si vuole critico e pertanto vigile sui limiti e sulle condizioni di intervento della ragione. Un pensiero che, stabilendo la possibilità di interrogarsi sulla religione non in nome di una ragione trionfante, ma di una religione che copre i suoi limiti, rivendica alla modernità la sua dimensione propria. Stabilire lo spazio per una riflessione sulla religione che riconosca ed osservi il limite oltre il quale la ragione non può spingersi, e però entro questo limite esercita con pienezza il proprio potenziale critico, significa aprire il campo ad uno studio del fenomeno religioso operato su basi scientifiche, che è cosa ben diversa dalla deduzione della religione dalla ragione. Proprio in ragione di questa differenziazione illuminista tra religione naturale e religione come prodotto di processi storici e culturali, è stato possibile quel capovolgimento di prospettiva che ha portato a guardare la religione anche in termini antropologici. Oggetto della riflessione kantiana non è più dunque direttamente Dio, ma l'uomo nel momento in cui pensa a Dio. Una novità che, rivolgendo prioritariamente l'attenzione all'uomo nel suo rapporto con Dio, rappresenta il punto di avvio di uno studio della religione che supera l'orizzonte della teologia razionale per incontrare la realtà storica e sociale. Dal mio punto di vista professionale, scientifico, di sociologo, credo che sia importante richiamare il fatto che il discorso critico trascendentale di Kant, nel suo intero sviluppo, non riconosce alla razionalità scientifico-matematica un valore di modello, ma anzi, indicando proprio nella religione la via del superamento della concezione illuministica di una razionalità mutuata dalle scienze naturali, rappresenta il passaggio da una visione della storia assorbita e spiegata all'interno della natura ad una natura invece spiegata attraverso la storia. In questo senso, poiché della religione kantiana appare centrale il riconoscimento di questa identità storica e comunitaria dell'esperienza religiosa, ne è evidente il valore culturale per chiunque voglia oggi accostarsi al problema religioso nei termini di un'analisi condotta nell'ambito disciplinare anche delle scienze sociali. Da sociologo mi sembra che senza questo Kant che voi avete meritamente fatto e visitato non ci sarebbe stata la teoria durkheimiana della religione espressa nel libro Le forme elementari della vita religiosa. Dalla religione risulta una consapevolezza ormai pienamente matura della dimensione storica e sociale di concetti sulla cui naturalità una lunga tradizione di pensiero aveva costantemente insistito. Questo è il motivo, si è detto, giustificazione di questa mia temeraria incursione sul vostro terreno filosofico, che rende il libro della religione e il processo culturale di cui il testo contiene manifestazione come un capitolo centrale dell'affermazione della modernità. È sufficiente ricordare a questo proposito il tema del male radicale. A partire dal tema della presenza nel mondo di una eliminabile componente di male radicale, Kant fonda un'ecclesiologia in cui agli occhi del sociologo risulta soprattutto l'idea di società civile come realtà storica in cui la regolamentazione dei rapporti intersoggettivi è dovuta non alle leggi giuridiche, come avviene nella dimensione statuale, ma alla legge morale. E la società civile, intesa come comunità etica, o secondo un'altra definizione kantiana, come repubblica universale, retta dalle leggi delle virtù, che fonda la propria esistenza sulla convergenza non coattiva delle coscienze morali, realizzata secondo l'irrinunciabile rimando ad una dimensione sovrasensibile. Questo privilegio, accordata la prospettiva etica alla società civile universale, che solo ora sta emergendo come tema politico globale, anche in ordine al discorso sulla religione e sul rapporto dell'uomo con il male, mi pare un elemento che oggi meriti di essere attentamente rivisitato e non soltanto in relazione all'esegesi kantiana. Già Kant poneva l'idea di una comunità etica nella luce di un ideale regolativo la cui realizzazione storica non avrebbe potuto essere che parziale e imperfetta, idea sublime, gli ha scritto, ma non mai attuabile completamente di una comunità morale, si rimpicciolisce tanto nelle mani dell'uomo da ridursi infine ad un'istituzione che, pur potendo rappresentare con purezza al massimo solo la forma di tale idea, è invece, per quanto riguarda i mezzi atti a costituire un tutto di questo genere, molto limitata, essendo subordinata alle condizioni della natura umana sensibile. In conclusione, mi sia permesso però di dare qualche voce a quello che fui discepolo di Kierkegaard e a quello che sono, lettore frequente e però inesperto, di San Giovanni della Croce. E grande il merito di Kant e il debito che dobbiamo a voi per averlo richiamato circa la fondazione teorica di una società civile universale con prospettiva etico-religiosa umana. Ma la religione non può fermarsi, a mio avviso, entro i limiti della semplice ragione. E la ragione può anche porsi al servizio del cammino del mistico attraverso la notte oscura. La religione, entro i limiti della semplice ragione, può essere un cominciamento, ma non un termine. C'è una ragione che entra nella mistica religiosa per il cammino dell'anima in Dio, un cammino tra i molti pericoli del male radicale, che richiede al mistico un uso di una ragione diverso da quello kantiano, ma sempre ragione è. C'è quindi una ragione per la quale, come prova tutta l'opera di San Giovanni della Croce, che può esserci una continuità di ragione, la quale non si stacca, come invece proponeva Weber, quasi come un prepellente consumato dal vettore che va muoversi nella dinamica verso la società automatizzata. E così dicasi, c'è una ragione che può entrare nel cammino del mistico dopo averlo, per così dire, avviato, ma senza perdersi nella consumazione di quello che è il momento del fondersi dell'amore divino. Ecco perché probabilmente credo che per molti di noi il partire da Kant, ma non di giungere, non di arrivare a Kant, costituisse un modo per uscire dalla crisi del postmoderno, avendo coscienza che in ogni caso con questo Kant che voi avete visitato si rivaluta e si fonda quell'universalismo della società civile che fino ad oggi non è stata una dimensione molto evidente. E con questo spirito di gratitudine che io vi ringrazio di questo vostro impegno e naturalmente nell'attesa di leggere gli atti riconosco il merito dell'iniziativa dell'Istituto di Cultura nella sua espressione più autorevole, Istituto di Scienze Religiose. Ringrazio perciò il buon signor Roger, ringrazio il coordinatore scientifico del convegno, il collega Gervi Boschini, il relatore tutti, e vi chiedo scusa se un altro impegno sempre in questo istituto mi costringe a non poter rimanere con voi oltre. Molte grazie ancora. A nome degli organizzatori e dei presenti ringrazio il professor Artigò, non di un suo temerario, ma di una sua interessante incursione nel campo dei filosofi, e lo ringrazio anche per aver colto così il nodo interessante che la piena compatibilità che intercorre tra la riflessione kantiana e la riflessione mistica, anche di grandi mistici della tradizione cattolica come San Giovanni della Croce. Di nuovo grazie. Grazie. Buon lavoro.